Partirono insieme col treno del sole e una valigia piena di speranze. Si divisero al nord. Antonio andò in polizia, Saverio a Milano per lavorare, con tanta voglia di poter studiare. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Erano due dei mille che ha lasciato l'Irpinia, dove la terra ha tremato e nelle baracche la gente aspetta la casa promessa che mai non avrà. La ra ra ra, la ra ra ra. Erano due dei mille fortunati che ogni anno aspettano con ansia il manifesto degli arruolamenti in polizia o nelle miniere dell'oltre frontiere. Partirono insieme col treno del sole e con quel treno laggiù son tornati con le corone del capo di Stato, di quello Stato che il meridione lascia in riserva ai padroni, quella riserva di carne umana che a poco prezzo si può comprare. Partirono insieme col treno del sole e con quel treno laggiù son tornati con le corone del capo di Stato, e con quel treno laggiù son tornati con le corone del capo di Stato.